Incontri di Gianfranco Fabi. What is this land, America? So many travel there. I'm going now while I'm still young, my darling, meet me there. Wish me luck, my lovely, I'll send for you when I can. And we'll make our home in the American land. Con le note e la voce di Bruce Springsteen iniziamo l'incontro di questa sera, American Land, e salutiamo Giovanni De Ponti. Buonasera De Ponti. Buonasera a lei, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Giovanni De Ponti, direttore generale di Federregno Arredo. Ecco, un omaggio all'America, ma Bruce Springsteen è anche abbastanza critico verso l'America, quindi questa canzone come mai le piace? Mi piace innanzitutto per un motivo molto personale e affettivo, perché questa canzone è contenuta in un CD che mi ha regalato mio figlio Pietro diversi anni fa e mi è piaciuto tantissimo, è stato il suo primo regalo relativo alla musica e tengo questo CD sempre in macchina con me e sono quindi molto affezionato a questo brano per questo regalo che mio figlio mi ha fatto. Quindi in macchina ogni tanto non sente Radio 24 e sente Bruce Springsteen. Però come radio è la mia radio preferita. Grazie mille, ma questo non è solo piaggeria. Ecco, direttore generale di Federregno Arredo, come si diventa direttore generale di una grande organizzazione imprenditoriale? Federregno Arredo è l'associazione imprenditoriale che riunisce le industrie appunto dell'arredamento, del mobile e del legno, una delle più grandi, uno dei settori anche più importanti, lo vedremo tra poco, dell'economia italiana. Come si diventa direttori generali? Beh, nel mio caso è stato perché ho trovato un uomo che ha avuto fiducia in me. Quest'uomo si chiama Roberto Snaidero e quando è stato rieletto presidente di Federregno Arredo 3 anni fa mi conosceva da diverso tempo e ha scelto me perché voleva avviare un'azione di rinnovamento, di ringiovanamento della federazione per renderla più moderna. E io sono molto riconoscente di questa fiducia, ma soprattutto del fatto che questa fiducia si è mantenuta nel corso di questi anni e ha consentito a me di crescere, di fare anche tanti passi, prendere delle decisioni e soprattutto trasferire questa fiducia che lui ha dato a me a tutti i miei collaboratori. Questa per me è stata un'esperienza impagabile, ecco, proprio anche dal punto di vista umano. Ecco, Federregno Arredo è una grande macchina organizzativa, una grande associazione, è una grande azienda, possiamo paragonarla a una grande azienda? Direi proprio di sì. Oggi noi abbiamo più di 140 dipendenti, 3 sedi a Milano, a Roma e a Bruxelles, e abbiamo aperto anche degli uffici di servizio in diverse parti del mondo, a Chicago, a Londra, a Mosca, e siamo in procinto di aprire con il mese di maggio a Shanghai. Questo per favorire sempre di più la nascita e lo sviluppo di opportunità di business per le imprese nostre associate. Ecco, voi coprite un po' tutta quella che viene chiamata la filiera del legno, cioè dal legno, forse non il legno per i caminetti, questo lo possiamo escludere, forse no. No, c'è anche quello. C'è anche quello. Sì, è vero, tutta la filiera, da chi commercia la materia prima, quindi da chi la importa in Italia, a chi la lavora, quindi anche il mondo delle sigherie, a chi la utilizza per costruire case e strutture in legno, e questo è un settore veramente molto innovativo e decisamente interessante. Poi c'è il settore della produzione del pannello, che ha come destinazione l'industria del mobile e l'edilizia. Passiamo poi al settore delle finiture per edilizia, quindi produttori di porte, di finestre, di pavimenti, di scale, naturalmente tutte in legno, certo. Per poi arrivare al grande mondo del prodotto finito. Quindi del mobile. Del mobile, certamente, certo. Del mobile, dell'arredo bagno, della cucina, dei prodotti del mobile per ufficio e anche degli apparecchi di illuminazione, perché noi ci chiamiamo Federlegno Arredo. E quindi tutto quello che compone anche una casa fa riferimento appunto a aziende che fanno capo alla vostra associazione, alla vostra federazione, che è una tra le più grandi nell'ambito della Confindustria. Credo di sì, noi siamo tra le più importanti federazioni del sistema confindustriale, siamo contenti di appartenere alla grande famiglia di Confindustria e su questo ci distinguiamo anche per il fatto che oltre a svolgere attività di rappresentanza e di lobby, quindi attività tipica confindustriale, noi ci caratterizziamo per il fatto di realizzare anche tanti servizi e quelli di cui andiamo maggiormente fieri sono i servizi fieristici. Noi organizziamo la più importante fiera di settore in assoluto al mondo per nel campo dell'arredamento, che è il Salone Internazionale del Mobile, che inizierà tra pochi giorni a Milano. Esatto, aprirà proprio l'8 di aprile per chiudersi il 13 di aprile. Poi realizziamo un'altra grande fiera legata al settore dell'edilizia che si chiama Made Expo e che da quest'anno diventa biennale, quindi si terrà nel mese di marzo del 2015. E poi realizziamo anche un'altra fiera che si chiama i Saloni Worldwide, che si tiene a Mosca nel mese di ottobre, quindi quest'anno ci sarà, e compierà i 10 anni di storia. Ed è un piccolo, è proprio una chicca, un piccolo salone mobile che noi realizziamo a Mosca, perché il territorio russo moscovita è un mercato di sbocco per il nostro settore molto molto importante. Ecco, il Salone del Mobile è un appuntamento ormai rituale, uno dei più grandi appuntamenti, un appuntamento che fa parlare appunto del settore. Come va il settore da un punto di vista congiunturale? Parliamo anche dell'economia reale, siamo in anni abbastanza difficili, la crisi ha colpito molto l'edilizia, ha colpito anche il mercato interno, soprattutto sul fronte del Salone del Mobile. Come hanno reagito le imprese del settore? Beh, qualche dato innanzitutto. Se noi guardiamo i dati del fatturato complessivo di questo settore nel 2007, ci dicono che fatturavamo più di 42 miliardi di euro. Andiamo ad analizzare il consuntivo al 31 dicembre 2013, troviamo che questi 42 miliardi si sono ridotti a 28 e quindi uno si spaventa. Detto ciò, in questa situazione, se li andiamo ad analizzare, scopriamo che questa perdita di 14 miliardi è tutta riconducibile esclusivamente a una perdita di domanda del mercato interno, che significa che le nostre imprese sui mercati esteri non hanno perso di competitività, e questa è una grande notizia all'interno di una situazione così drammatica come quella che ho descritto, perché proprio al termine dell'anno scorso noi abbiamo recuperato il fatturato che era stato sviluppato nel 2007, quindi prima dell'insorgere della crisi. Significa che le nostre imprese sanno stare sui mercati, sanno innovare. Gli imprenditori in particolare hanno questa voglia indomita di andare continuamente alla ricerca di nuovi mercati, e questo per me che li osservo è un'esperienza straordinaria da vedere, entusiasmante. Quindi il Made in Italy funziona ancora, il settore del, appunto, del legno, del mobile, dell'arredamento, talvolta descritto come un settore maturo, è un settore invece che può continuare a crescere, può continuare a innovare e a presentare il Made in Italy all'estero. È proprio così, e può continuare a innovare anche in Italia. Abbiamo avuto aziende in questi anni di crisi che hanno fatto il record di fatturato oppure il record di profitti. Com'è possibile? È interessante andare a scoprire qual è stato il segreto: innovazione nel campo del prodotto, innovazione nel campo della distribuzione, idee più fresche, cioè ce n'è veramente per tutti i gusti. Certamente, dico, è interessante cercare di capire come mai. Io trovo che la natura, il DNA di questi nostri imprenditori sia una cosa straordinaria, perché in questi anni di crisi in pochissimi hanno abbandonato la nave in difficoltà. Ho assistito personalmente a situazioni di imprenditori che hanno rimesso nell'azienda i denari guadagnati magari negli anni migliori, certo, in anni precedenti, che uno aveva accantonato per sé, e li hanno reinvestiti in azienda perché considerano l'azienda come una parte della propria famiglia. Prima di decidere di licenziare qualcuno è come uno che deve tagliarsi il braccio oppure mandare via un proprio familiare, no? E questa è una cosa tipica delle nostre imprese, e spiega anche il perché, insomma, nonostante la crisi, il settore non è crollato. Certo. Ecco, questo. E quindi guardate anche con fiducia al futuro. Tra l'altro, appunto, l'anno prossimo, con questo Made Export di primavera, sarà un po' anche un'anteprima dell'Expo 2015. Expo 2015 che inizierà a maggio. Voi fate un po' una, diciamo, un aperitivo rispetto a questa grande manifestazione che dovrà portare a Milano, su Milano, l'attenzione del mondo. Sì, l'anno prossimo avremo un trittico straordinario, perché nel mese di marzo avremo Made Expo, nel mese di aprile il Salone del Mobile e a maggio incomincerà il Grande Expo 2015. Allora, Made Expo l'anno prossimo, secondo me, come diceva lei, sarà particolarmente interessante, perché ci sarà la possibilità di vedere in anteprima, dentro la fiera, a Fiera Milano, che cosa? Quei grandi progetti di architettura che potremo tutti quanti ammirare dal vivo andando a vedere l'Expo. Incontri. Tu stai facendo sidewalks, this gutter's lightning song. Dear, I hear the beer flows through the faucets all night long. There's treasure for the taking for any hardworking man who'll make his home in the American land. Ancora con Bruce Springsteen, con American Land, riprendiamo il nostro incontro con Giovanni De Ponti, direttore generale di Federlegno Arredo. Nella prima parte abbiamo parlato di questo settore, il settore uno dei più importanti dell'economia italiana, un settore che ha vissuto indubbiamente una crisi, ma che sta guardando al futuro con innovazione, con capacità competitive e con una certa significativa crescita per le esportazioni e quindi guardando anche all'internazionalizzazione come un fattore fondamentale. In questa prospettiva ho interrotto il dottor De Ponti mentre parlava di Made Export, questa esposizione che si svolgerà, che è diventata biennale, un'esposizione dell'edilizia, ma di tutto quanto concerne la casa e le strutture edilizie. Stava parlando appunto per dire quali saranno le novità del 2015, una esposizione che si svolgerà a marzo dell'anno prossimo, quasi come anteprima dell'Expo 2015 che si aprirà a maggio. Allora, dottor De Ponti, cosa diceva sul fronte di Made Export? Beh, c'è la novità più interessante, a mio parere, è questo grande accordo che abbiamo fatto noi di Made con la società di Expo 2015, che prevede di realizzare questo progetto che si chiama Building di Expo, nel quale noi a Made potremo mostrare in anteprima assoluta quelle che saranno, ovviamente in modo virtuale, quelle che saranno le caratteristiche di questi grandi progetti di architettura che potremo ammirare dal vivo andando poi a visitare l'Expo, cioè questi grandi progetti dei padiglioni dei paesi stranieri. Allora, tramite la società Expo, i nostri collaboratori entreranno in contatto, stanno già entrando in contatto con questi grandi studi di progettazione in giro per il mondo, che stanno progettando questi straordinari padiglioni espositivi dove avranno sede appunto i diversi padiglioni dei paesi stranieri, in cui non ci potrà non essere qualcosa che fa riferimento all'arredo, alla costruzione certo, soprattutto. E quindi sarà veramente interessante per un architetto, per un progettista, per chi ha a che fare con l'architettura e l'edilizia, poter vedere in anteprima le caratteristiche di questi grandi padiglioni. E questa cosa sarà visibile in esclusiva dentro Made a marzo 2015 in fiera. Quindi diceva una successione di eventi: Made Expo a marzo, ad aprile il Salone del Mobile, che è sempre annuale, quindi rispetta la sua tradizione, e a maggio pronti per Expo 2015, a cui voi guardate anche con interesse. Con molto interesse, soprattutto per l'opportunità di visibilità che avrà, oltre che il nostro paese, il nostro territorio, le nostre aziende. Sono previsti molti milioni di visitatori stranieri e noi contiamo di poter mostrare il meglio della nostra produzione proprio a questi visitatori stranieri affinché possono comprare i nostri prodotti. Andare su Made in Italy in maniera un po' riflessa, ecco, voi non siete direttamente implicati nel tema nutrire il pianeta, che sarà quello di Expo 2015, però nella struttura della dimensione, nella realtà italiana, voi siete una delle realtà più dinamiche, che non mancherete di essere presenti sotto questa prospettiva. Sì, soprattutto perché cercheremo di far vedere come è possibile arredare con gusto gli ambienti in cui si vive, attingendo quindi a un patrimonio della nostra tradizione culturale italiana, che è caratterizzato dal tema della bellezza. I nostri arredi, le nostre case sono molto belle da abitare e da vivere. Certo, sono molto belle se sono anche molto ben arredate, e se uno va a visitare oggi il Salone del Mobile si emoziona dal vedere, certo, com'è bello poter arredare la propria casa in modo confortevole. Ecco, questo richiamo alla bellezza è certamente significativo, una bellezza che è qualcosa che va oltre la competitività di un settore. Un settore può essere competitivo a livello economico, ma se punta anche alla bellezza, allora raggiunge sicuramente una capacità di essere sul mercato che altri forse non hanno, e questo è anche uno dei vantaggi del Made in Italy che dobbiamo difendere. È proprio così. E uno, tra l'altro, quando aspira alla bellezza, una delle scoperte che può fare è, se va a vedere le nostre imprese, che questa bellezza è accessibile non soltanto a chi ha il portafoglio gonfio e può permettersi di comprare prodotti costosi, ma soprattutto è accessibile a chi ha degli occhi capaci di guardare e un cuore capace di desiderare. È possibile trovare prodotti belli a un prezzo accessibile, certo, dentro l'industria italiana di arredamento. Ecco, ma lei diceva farete un'esposizione a Mosca nell'autunno prossimo, aprirete a Shanghai, ma gli altri come ci guardano? Apprezzano la nostra bellezza, i russi, i cinesi? Guardi, andando in giro per il mondo, una delle cose che mi emoziona di più è proprio vedere che l'Italia è riconosciuta come paese amante della bellezza. E tutti vorrebbero, tutti quelli che hanno una capacità di, per potersi permettere di acquistare mobili di importazione, tutti vorrebbero comprare mobili italiani, perché sono riconosciuti come belli e poi sono riconosciuti anche come originali. C'è questo, ahimè, fenomeno delle copie che noi cerchiamo di combattere in tutti i modi, però all'estero c'è un riconoscimento del nostro valore, della nostra capacità enormemente superiore a quello che noi qua in patria ci riconosciamo da noi stessi. Ecco, sì, ovviamente è un momento difficile per l'impresa, lei diceva in patria che ci riconosciamo, in patria abbiamo delle difficoltà, lei accennava gran parte delle difficoltà per le imprese del settore sono nate sul mercato interno, qualcosa si è fatto, incentivi fiscali e così via, hanno avuto qualche impatto sul mercato o è ancora presto per fare un bilancio? No, hanno avuto un impatto molto positivo, noi di solito siamo abituati a lamentarci che il governo non fa niente, che le cose non funzionano. Io invece qui posso testimoniare che il provvedimento che è stato preso dal governo col bonus mobili ha dato dei risultati molto positivi. Noi abbiamo misurato negli ultimi mesi del 2013, quindi soltanto con due mesi in cui era entrato in vigore il bonus mobili, abbiamo stimato che questa norma, questo incentivo ha prodotto un fatturato incrementale, quindi maggiori acquisti di mobili per oltre 300 milioni di euro. Allora, questa è una notizia straordinaria che ci dice che è possibile fare qualcosa di concreto anche usando i decreti legge, usando le norme per dare sviluppo a un settore trainante, portante del nostro paese come quello dell'industria dell'arredo. Allora, possiamo ricordarlo, è ancora in vigore. È ancora in vigore e l'altra notizia straordinaria è che questo provvedimento è stato prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2014, per cui secondo me... Sì, ma non aspettate il 31 dicembre. Non aspettate, ma soprattutto le donne, entrate nei negozi di arredamento che avete delle opportunità imperdibili. Poi andrete dai vostri uomini, dai vostri mariti e dicete adesso paga, che noi abbiamo trovato quello che serve per arredare meglio la nostra casa. E come dice mia moglie spesso, ti ho fatto risparmiare un sacco di soldi. Perché... È così, e ho anche contribuito al rilancio dei consumi. Ecco, passiamo anche dopo questo spot pubblicitario che ci siamo permessi anche a guardare un po' al settore con qualche iniziativa un po' più vicina a noi. Ho visto che avete fatto un accordo con il Comune di Milano per realizzare delle scuole in legno. Sì, questo è stato un accordo molto bello perché l'amministrazione comunale di Milano, dopo mesi di collaborazione con noi, ha capito che per riammodernare parte del proprio patrimonio immobiliare destinato alle scuole poterle ricostruire utilizzando le strutture di legno. Questo che vantaggi dava? Intanto tempi ridottissimi di realizzazione, per cui si immagini quando termina la scuola a giugno, riapre poi a settembre, i mesi a disposizione sono molto pochi, uno cosa fa? Lascia dove li mette i bambini? Invece, ricostruendo una scuola usando le tecnologie di legno, si possono abbreviare notevolmente i tempi di realizzazione. Che non si tratta di fare i vecchi prefabbricati? Qualche... Assolutamente. Allora, oggi la tecnologia delle strutture in legno è una tecnologia completamente innovativa. Io, se potessi tornare indietro, casa mia oggi la comprerei come casa in legno, perché casa in legno non è la casa dei tre porcellini. La casa in legno è una casa che ha delle prestazioni energetiche straordinarie. Ecco, ma adesso si parla molto di rinnovamento del parco, delle scuole, uno dei punti di forza anche del nuovo governo è quello di investire nell'ammodernamento delle scuole, voi potete entrare in questa prospettiva per aiutare questa possibilità di rendere più moderne le scuole italiane. Assolutamente, noi intanto mettiamo a disposizione, come già abbiamo fatto da diversi mesi, i nostri tecnici, con i tecnici pubblici, per esempio abbiamo avviato una collaborazione col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è straordinaria perché vuol dire mettere a disposizione il nostro patrimonio di conoscenze alle conoscenze dei tecnici pubblici. Allora, questo che beneficio potrà dare? Intanto minori costi di realizzazione. È possibile rinnovare il patrimonio spendendo di meno. Secondo, minori costi di gestione. Le strutture in legno di una scuola, di una casa, d'estate consentono di spendere di meno per il raffrescamento e d'inverno di spendere di meno per il riscaldamento, e alla fine questo incide, eh? Sì, ma questo forse per le piccole case, o si può pensare anche a case di una certa dimensione. Assolutamente. Qua in questa città è possibile andare a vedere una costruzione totalmente fatta in struttura di legno di 9 piani, proprio qua a Milano, nel centro di questa città, come casa privata. Ma io dico, noi abbiamo costruito a Finale Emilia, uno dei paesi colpiti dal terremoto, abbiamo ricostruito col contributo di 80 imprese di Federlegno Arredo un asilo che ospita 260 ragazzi in un arco temporale brevissimo, e questa è una struttura molto grande. E se uno la va a vedere scopre che è molto bella, confortevole, e i bambini sono contenti di andarci. Ecco, potremmo parlare a lungo di queste realizzazioni, ma dobbiamo avviarci alla conclusione. Io tornerei a Giovanni De Ponti come persona, direttore generale di Federlegno Arredo. Quali sono i suoi hobby al di fuori della passione per il compito di organizzare questa grande associazione? I miei hobby, vabbè, io sono un amante del basket, del calcio, ma mi piace soprattutto il poco tempo che ho a disposizione fuori dal lavoro, passarlo con la mia famiglia, con i miei amici, perché con loro mi alimento, diciamo, trovo l'energia anche per affrontare il compito del lavoro e soprattutto con un senso. Ecco. Ah, i suoi figli la rimproverano magari un po' perché è troppo appassionato del lavoro? Ma diciamo che beneficiano anche loro un po' di questa passione e secondo me sono contenti di condividere con me la vita che sto facendo, insieme anche con mia moglie naturalmente, e trarre anche loro il positivo, quello che hanno da cogliere naturalmente vedendo me come lavoro. Pensare positivo, forse anche questo, diciamo, magari può essere uno slogan, però è anche una qualcosa che dobbiamo applicare nella realtà. Certo, per pensare positivo bisogna vivere un'esperienza di positività, per vivere un'esperienza di positività bisogna sentirsi voluti bene da qualcuno. Certo. È indubitabile. E questa speriamo che sia la realtà da condividere anche con gli altri, anche per quanti ci ascoltano. Che ringraziamo di essere stati con noi questa sera. Grazie a Giovanni De Ponti, direttore generale di Federlegno Arredo. Grazie anche a Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.